Radio Popolare vi ha presentato La Caccia, Caccia l'ideologico quotidiano, una trasmissione a cura di Felice Accame e Carlo Oliva. Grazie della cortese attenzione a tutti voi, grazie a Cristiano Valli per la regia e grazie ad amici come Poldo, a Marco Andreoli per il conforto che non ci fanno mai mancare. Buona giornata a tutti, l'appuntamento rimane confermato domenica prossima alla medesima ora.